giochi a golf, a bridge, frequenti il tiro a volo e la café society. Si può pensare che coi pari d'Inghilterra ci fai la birra, ma non è così. Sgancia, pedala, sulla fronte forse scritto sale e tabacchi, che vuoi da me? Pensa te, ma sgancia, pedala, devi andarla a raccontare a qualcun altro, ma non a me. Che tre ville hai comperato e uno yacht ti sei perduto, altre sette con gli amici al bar. Che una bella ereditiera si è mangiata una miniera, così per poterti baciare. Ma sgancia, pedala. Tu m'hai preso per un altro, ma con chi credi di parlare? Fammi il piacere, queste cose tu le puoi sognare, ma tuo nonno valle a raccontare. Dammi retta, sgancia, pedala. Pedala. Tu m'hai preso per un altro, ma con chi credi di parlare? Fammi il piacere, queste cose tu le puoi sognare, ma tuo nonno valle a raccontare. Dammi retta, sgancia, pedala.